Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 9 febbraio, buongiorno a tutti i nostri teleradio ascoltatori, bentornati su Liberi Dentro Eduradio e TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda tutti i giorni, un'ora al giorno, su Radio Città Fujiko e Lepida TV canale 118. Io sono Caterina Bombarda con Antonella Cortese. Ciao Antonella, bentornata. Buongiorno a tutti e a tutti, ciao Caterina. E apriamo ancora questa mezz'ora quotidiana con voi, con le nostre notizie scelte tra carcere e città. Questa riguarda l'ergastolo ostativo. Leggo da Il Foglio, a firma di Adriano Sofri, i detenuti che non collaborano non sono tutti uguali. Eh sì, perché la Corte Costituzionale si è pronunciata contro l'assolutezza del criterio che esclude il detenuto non collaborante dall'accesso ai benefici carcerari. Il silente, cioè colui che sta in silenzio, non dichiara, non confessa per sua scelta, non equivale al silente suo malgrado. Quindi a chi non confessa perché non può, perché non è in grado, magari teme per la sua incolumità o quella della sua famiglia, di farlo. Ma in Parlamento questa linea non passa. Caterina, circoscriviamo un attimo la questione. Stiamo parlando del pronunciamento della Corte Costituzionale sull'ergastolo ostativo, il cosiddetto fine pena mai, giusto? Esatto, tema del dibattito è proprio l'ergastolo ostativo, è stata richiesta la riforma dell'ergastolo ostativo, chiesta a gran voce sia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che dalla Corte Costituzionale. Difatti, nella sentenza dell'anno scorso, aprile 2021, i giudici costituzionali italiani hanno dichiarato incostituzionale la norma che vieta di liberare, concedere benefici ai boss stragisti condannati all'ergastolo che non collaborano con la giustizia e anche ai boss mafiosi che abbiano scontato i 26 anni di pena. La palla così è passata al Parlamento, il quale avrà tempo ancora fino a maggio di quest'anno per intervenire e sanare questa irregolarità. Si tratta in realtà di una decisione piuttosto coraggiosa, ma nello stesso tempo anche molto prudente nel sottoporla poi a ulteriori vincoli legislativi. Il Parlamento che come sta reagendo? Ma il Parlamento, leggo sempre da Adriano Sofri sul Foglio, sta adoperandosi per svuotare ogni contenuto della decisione della Corte. Il 25 gennaio la Corte Costituzionale ha pubblicato un'altra sentenza che stabilisce che i detenuti che non collaborano con la giustizia non sono tutti uguali. Il silente per sua scelta non equivale al silente suo malgrado, come riportavo all'inizio. Senti, ma c'è una divisione su questo punto oppure sono tutti d'accordo? Guarda, non sono assolutamente tutti d'accordo. Innanzitutto ti dico che cosa pensa il magistrato di sorveglianza di Padova, Niccolò Zanon, che stima che sarebbe arbitrario distinguere tra chi oggettivamente può confessare ma soggettivamente non vuole collaborare, quindi il silente per sua scelta, da chi soggettivamente vorrebbe ma oggettivamente non può e quindi è silente suo malgrado. La Corte tuttavia ha osservato che il carattere volontario della scelta di non collaborare costituisce un oggettivo simbolo di allarme perché esigerebbe un regime rafforzato di verifica esteso anche all'acquisizione di elementi idonei a escludere il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata da parte della persona detenuta. Ma mi chiedevi appunto delle critiche. Leggo dal Fatto Quotidiano che è stata una decisione fortemente criticata dai numerosi PM antimafia come Gratteri, lo stesso Di Matteo, e che ha portato lo stesso Salvatore Borsellino, che come sapete è il fondatore di Movimento Agende Rosse e il fratello del giudice Borsellino ucciso da Cosa Nostra, a organizzare un incontro a Milano nei giorni scorsi per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo delicato tema. Lui dice: il rischio è che dopo 26 anni soggetti come i fratelli Graviano possano tornare a casa tranquilli e beati. E quindi questa è una prospettiva molto criticata anche dalle procure italiane. L'auspicio è quello di mantenere rigidi i paletti per chi non collabora con la giustizia. Ma scriveteci cosa ne pensate. Redazione Liberi Dentro, @gmail.com, e mentre ci scrivete ascoltatevi anche questo brano musicale, Ear Hustle Lamentation. Ci rivediamo tra pochissimo. I saw my brother, he did me wrong. Had a gun up to my face, my money's gone. I said, please don't be that way, I'm just trying to make it through the day. He said, you better not come round me before too long. Love is crying, love is dying, love is crying, love. I saw my sister, she did me wrong. I had a smile upon my face, but hers was so cold. I said, sister, please don't go, I'm just trying to say hello. She said, you better not come round me before too long. Love is crying, love is dying, love is crying, love. Love is crying, love is dying, love is crying, love. Can't you hear the cries from heaven up above, looking down upon this world of dying love? Hurry up and don't delay, before your chance to save the world is gone away. E rieccoci, bentornati, siete sempre su Liberi Dentro ed Euradio TV. Continuiamo la rassegna delle nostre notizie con Antonella Cortese. Apriamo magari, Antonella, una finestra sul Giappone, c'è una notizia interessante. Sì, c'è una notizia particolare in realtà, che ho letto su Internazionale, della storia di due paesi, di una spia abbandonata al proprio destino e non riconosciuta e poi fatta surgere a eroe nazionale. Stiamo parlando di Richard Sorge. In un cimitero nella zona ovest di Tokyo, il cimitero si chiama Tama Ohaka, il più grande dei cimiteri municipali della capitale, e il primo progettato come parco nel 1923, c'è una lapide scura con una scritta in cirillico, la stella dell'Armata Rossa e un ramoscello d'ulivo. È lì che sono sepolte le ceneri di Richard Sorge, spia sovietica di stanza in Giappone, fino alla morte nel 1944. Che a lungo Mosca non ha voluto riconoscere e che ora invece il Cremlino vorrebbe riportare a casa seppellendone i resti nelle Curili meridionali, quella parte dell'arcipelago a nord dell'Hokkaido che Russia e Giappone si contendono da sempre. Recentemente il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, rivolgendosi al Parlamento di Mosca, ha parlato di risolvere finalmente la questione in modo positivo. Se fossero vivi però entrambi, cioè sia Sorge che la compagna Hanako Ishii, forse non sarebbero così d'accordo di questo spostamento delle ceneri. Perché di fatto Mosca non lasciò che il suo agente sotto copertura, smascherato e arrestato nel 1941 dalla Kenpei Tai, la polizia segreta dell'impero giapponese, 3 anni dopo fosse impiccato, ma perché ci mise altri 20 anni per ammettere che si trattava di un proprio uomo? Già, perché, esatto. Ma senti, facciamo un salto storico, torniamo un attimo indietro. Chi è Richard Sorge? Allora, Richard Sorge era nato nel Caucaso russo nel 1895 da genitori tedeschi e fu reclutato dai servizi segreti sovietici all'inizio degli anni 20. Cominciò a girare l'Europa spacciandosi per giornalista e nel 1929 entrò nel partito nazista. Trascorse 3 anni a Shanghai e poi fu mandato in Giappone con il nome in codice di Ramsey a mettere in piedi una rete di spie. A Tokyo si fece vari amici tra i diplomatici tedeschi che lo credevano un fervente nazista e nell'alleato governo giapponese. Nel 1941 Sorge comunica a Mosca dei dettagli fondamentali del piano tedesco per invadere l'Unione Sovietica e la decisione di Tokyo di non attaccare l'URSS, malgrado l'appartenenza del Giappone al tripartito, cioè l'asse Roma-Berlino-Tokyo. Però Caterina Stalin prese le informazioni sotto gamba e il 22 giugno di quell'anno, quando scattò l'operazione Barbarossa, si fece cogliere di fatto impreparato. È stato forse proprio per evitare a Stalin l'imbarazzo di quell'avvertimento ignorato che Mosca ha rifiutato la proposta di Tokyo di scambiare Sorge con una sua spia imprigionata in Russia, negando che si trattasse semplicemente di un proprio uomo. Solo nel 1964 l'Unione Sovietica riconobbe che era stato un agente al suo servizio e lo dichiarò un eroe. La cosa strana anche che se in Occidente il suo nome era ben conosciuto, la sua straordinaria attività di intelligence in favore dell'URSS sempre più messa in evidenza, nei paesi comunisti non se ne sapeva niente. Nei paesi occidentali, penso, circolavano libri, film, articoli, saggi, mentre il regime comunista aveva deciso di tenere tutto sotto traccia. E allora adesso come mai lo vogliono riportare in Russia? Questa è una questione che è diventata politica apparentemente, perché il fatto che dopo tanti anni Mosca voglia riprenderselo per portarlo alle Curili, che in Giappone chiamavano territori settentrionali, suona un po' come un messaggio provocatorio diretto al Giappone. La disputa delle isole meridionali dell'arcipelago, che continua a scaldare gli animi dei nazionalisti nipponici, tra l'altro, va avanti dalla fine del secondo conflitto mondiale, dopo che nell'agosto del 1945 l'esercito sovietico l'ha invase. In realtà le Curili sono contese da oltre due secoli e chi davvero avrebbe voce in capitolo per rivendicare qualcosa è soprattutto la popolazione indigena, che si chiama Ainu, che è praticamente stata assimilata, cosiddetta, a metà Ottocento, cioè culturalmente sterminata e deportata da quelle isole, oltre che dall'Hokkaido, dove effettivamente risiedevano. E terminiamo questa storia ritornando alla nostra Sista Awa, cioè Awa Fal, con il brano Angry. Non andate via, perché dopo c'è la seconda puntata di Paolo Leotti, giornalista responsabile di Teleradio Reporter presso il carcere di Bollate, sui maestri del giornalismo. Ascoltiamolo perché è molto interessante. A dopo. Eccoci e bentornati, siamo sempre su Liberi Dentro, Eduradio e TV, il nostro programma che fa da ponte tra carcere e città, e proseguiamo da ieri l'intervista, la chiacchierata con il nostro Paolo Leotti. Ciao Paolo e bentornato. Ciao, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, ti faccio subito una domanda secca, stiamo parlando dei maestri del giornalismo e quindi io ti chiedo da dove viene il giornalismo italiano come lo conosciamo noi oggi, in particolare quale delle bussole del giornalismo che ci hai citato ieri rappresenta al meglio la sintesi del giornalismo italiano? Insomma, una domanda abbastanza complicata. Poi ovviamente per me, come si dice adesso, secondo me, Le persone che per me almeno sono state importanti punti di riferimento, le ho citate ieri, appunto Capucinski, Terzani, Mario Soldati, Sergio Zavoli. Ecco, Sergio Zavoli sicuramente a me è stato più vicino degli altri perché ci ho lavorato insieme, anzi addirittura, se posso permettermi una piccolissima digressione, io ero giovanissimo, lui era il direttore del GR1, io ero al GR3, il più piccoletto dei giornali radio, mi voleva a tutti i costi con lui, e io però a un certo punto resistetti, perché nonostante mi affascinasse molto, andavo nel GR1 che era un giornale di quelli duri, quelli forti, quelli che facevano aggomitate, io volevo ancora crescere, volevo avere dello spazio per crescere un po' meglio. E questo è anche interessante, rimasi al GR3, quello mi permise poi appunto di espandermi e di andare a finire negli Stati Uniti. Al GR1 avrei dovuto combattere con gli altri e fare a botte per andare magari fino a Napoli a fare l'inviato. Quindi ecco, questo sicuramente. E Zavoli era veramente un grande, forte maestro, mi piaceva proprio molto, insegnava molto, serissimo, anche se poi veniva dal giornalismo sportivo, aveva fatto il processo alla tappa, insomma, aveva tante cose dentro di lui, compreso il fatto di saper veramente fare il giornalista e l'uomo di informazione, tanto che è diventato poi presidente della RAI. Il giornalista e il documentarista, tant'è vero che uno dei suoi documentari più famosi si intitola Clausura, ed è del 1957, e si riferisce, secondo me, a una reclusione un po' particolare, vero Paolo? Sì, la clausura è un suo viaggio, diciamo così, all'interno di un convento di monache di clausura, di carmelitane scalze, ma la cosa interessante intanto è che nasce nel 57, cioè vicino a Mario Soldati e al suo viaggio, perché in quei momenti era arrivata la televisione in Italia, la televisione doveva vendersi, far vedere quanto era brava e assumeva Mario Soldati. La radio doveva difendersi, difendere il proprio predominio nell'informazione e quindi usava Zavoli per fare delle grandi cose che non erano mai state fatte. E lui che fece, riuscì a convincere lungo un anno di trattative queste suore del convento di far entrare, non loro che non potevano entrare, perché in un convento di clausura degli uomini, figure se potevano entrare, ma il registratore riuscì a farlo entrare attraverso la grata, insegnando da fuori della grata alle suore a usare il registratore per fare le registrazioni. Molto interessante, molto bello. Ecco, io mi sono fatta l'impressione, ascoltando questo radiodocumentario, che consiglio anche alla cittadinanza che ci ascolta in questo momento, lo trovate su YouTube, il documentario di Sergio Zavoli, Clausura. Ecco, ho avuto l'impressione che Zavoli togliesse una sorta di velo a quella che era la realtà dei monasteri in Italia negli anni, fra gli anni 50 e 60, vero Paolo? Sì, è così. Infatti, diciamo che siamo ancora un po' nel dopoguerra, si era creata questa sensazione che nei conventi di clausura ci fossero delle persone che si rifiutavano di lavorare per la vita, e c'era una sorta di morbosità dentro questi conventi, secondo quello che si diceva fuori. Quindi lui voleva rompere questo velo. Per farlo però lavorò tantissimo, il lavoro di diplomazia, imparò il linguaggio che avrebbe dovuto usare dentro, perché se noi lo sentiamo, come credo lo sentiremo nell'intervista, sentiamo che parla il loro linguaggio, non il nostro, gli dà del voi, ha un tono francamente appunto da convento. Non è che gli appartenesse prima, appunto, mentre faceva il processo alla tappa, lo impara, scopre tante cose e ci insegna che cosa? Che fare il giornalismo non è, posso dire una cosa un po' volgare? Sì, me lo disse Francesca Archibugi, la regista, in una intervista, mi dice: fare un film non è come fare un rutto, non è che si fa così, non è l'emanazione del proprio, no, bisogna studiare, bisogna approfondire, bisogna volerlo, bisogna chiedere e sapendo che puoi chiedere senza arroganza. Ecco, Zavoli ci insegnava questo, in un anno di lavoro riuscì a portare a casa una sorta di capolavoro. In un anno di lavoro in cui lui è riuscito con tanta sapienza anche a stravolgere una delle regole più ferree, a quanto io ne so, della clausura, delle monache di clausura, che hanno appunto il divieto di uscire, ecco, di comunicare col mondo, invece rimangono all'interno del monastero per fare le loro attività, tra cui anche la preghiera. Lui è riuscito a far entrare un microfono, dicevi, no? Come ha fatto? Come ha fatto? Lo dicevo, appunto, lo accennavo, ha lavorato tanto, ha portato questo grande registratore e faceva vedere come si poteva utilizzare, e voleva dirgli: guardate che noi non vogliamo rompere la vostra privacy, assolutamente, non c'è nessun desiderio, il desiderio è di sapere come vivete, anche per sconfessare tutti coloro che dicevano che all'interno ci fosse un'atmosfera lugubre, e infatti si sentono i canti, è molto bello, molto fresco quello che si sente dentro, ed è qualcosa che tu non puoi fare se entri tu, come io recentemente ho fatto questo documentario in carcere di cui abbiamo parlato. Quando una donna carcerata è entrata lei stessa con la telecamera tra le sue compagne, ha ottenuto la realtà, ha ottenuto una cosa molto fresca. Ecco, lui ha fatto un'operazione che adesso fanno alcuni, che danno il telefonino in mano a un immigrato, lo mettono tra gli immigrati e lui può raccogliere davvero le testimonianze. Ci ha insegnato veramente tante cose. Lui ci ha messo un anno a fare tutto questo prima di instaurare un rapporto con le monache di clausura, tra l'altro proprio in questa città di Bologna, in via Siepe Lunga, ma alla fine ti chiedo, si è instaurato un rapporto, un'amicizia? Perché alla fine mi colpisce quando la badessa, che si chiama Maria Teresa, gli dice: guardi, non torni mai più però. Esatto, dunque di amicizia non so che si possa parlare, di fiducia certamente sì. La verità è che questa intervista ha una potenza dentro di sé, una potenza esplosiva, perché diventa in grado di farci conoscere il mondo interno al monastero, ma dall'altra parte entra nel cuore della badessa, tanto che alla fine le porta alla luce le contraddizioni che non si possono non avere quando fai delle scelte così radicali. È per questo che poi lei alla fine dice non torni mai più, perché iniziava dentro di lei a sorgere il dubbio che fosse giusto restare lì dentro, reclusa a tutto il resto del mondo. Io proporrei ai nostri ascoltatori di appunto ascoltare un pezzettino di questa intervista tra Sergio Zavoli, il cronista, e la badessa Maria Teresa, perché per me è da brivido, perché come dici tu usa lo stesso linguaggio che si usa all'interno di un convento. Ascoltiamolo, in cui lui le chiede le ragioni di questa rinuncia, tra virgolette, dal mondo, ecco, alla vita di clausura. Ho di fronte il velo nero sul volto di Suor Maria Teresa dell'Eucaristia, sottopriore del monastero. Vostra Reverenza, accompagna la vostra vita tutta una tetra letteratura, come lei sa. Si crede che abbiate perduto persino ogni possibilità di dialogo umano, che la costrizione fra queste mura abbia addirittura inaridito la vostra mente. Vede, dopo tanti anni di vita di monastica, il nostro spirito si semplifica moltissimo. E da allora abbiamo modo di concepire le cose tanto diverso da loro. Che cosa, vostra reverenza, vi par lecito rimpiangere di ciò che avete lasciato? Veramente, se devo essere sincera, se c'è qualcosa che rimpiango, non è tanto per quello che ho lasciato, in quanto per quello che avrei voluto avere da lasciare. L'anima, valutando, insomma, misurando la preziosità della ricompensa per il suo sacrificio, vorrebbe aver posseduto il mondo intero per offrirla al Signore. E che cosa avete conquistato fra queste mura? La pienezza della verità. Ed una gioia ed una pace non provate mai prima d'ora. Mi perdoni, madre, ma non era sufficiente pregare e votare a Dio le vostre esistenze nei limiti normalmente accettabili da una creatura umana? Perché questa estrema rinuncia ai beni del mondo? Non dipende tanto da noi quanto da Dio. A noi non rimane che aderire con generosità. Senza una chiamata non sarebbe possibile questo nostro perseverare. Se il suo sacrificio avesse il potere di salvare un'anima sola, per chi lo offrirebbe? Se saprò degnamente macerarmi nel mio solco quel fiore di grano che nascerà dalla mia morte, lo colgo una creatura umana. Non importa per me chi essa sia, di dove venga, cosa cerchi. E rieccovi dopo aver ascoltato un pezzettino del radiodocumentario di Sergio Zavoli, Clausura. Ecco, per concludere, una curiosità. Dopo 19 anni, Suor Maria Teresa lasciò la clausura. Ho letto anche la storia recente di questa badessa che poi scelse di fondare un eremo a Collepino di Spello. E lei trovò una sorta di seconda chiamata, perché dopo l'intervista con Zavoli si generò una serie di domande anche dall'esterno, persone che la cercarono per dialogare con lei. Quindi lei alla fine abbandonò una scelta fatta certamente in giovinezza per farne un'altra, vero Paolo? Assolutamente sì, e se posso dire anche un altro piccolo particolare che ci racconta la grandezza di Sergio Zavoli. Sergio Zavoli, dopo quella intervista, un anno dopo, tornò per fare la stessa cosa in televisione, ma non entrando dentro, ma riprendendo il monastero dall'esterno. È lì che scoprì che la madre badessa non c'era più, però per dire che poi lui non lasciava le cose, cioè una volta che l'aveva fatto poi le lasciava lì, no. Capiva che quello era un documento importante, voleva dargli seguito, ampliarlo, farlo vedere anche attraverso la televisione, che piano piano cominciava a conquistare l'Italia. E allora è bello salutarci ancora con un estratto sempre da Clausura, in cui la badessa delle monache in via Siepielunga di Bologna spiega le ragioni di questa seconda chiamata. Ci rivediamo domani sempre su Liberi Dentro Edu Radio. Grazie Paolo. Grazie a voi, arrivederci. L'antevigilia di Natale vinse tanto una chiesina romanica deroccata da secoli in località Collepino, sentì di aver raggiunto la riva. Paternamente accolta da un vescovo che sentì come immerso nella primavera del concilio, mi dedicai, alla nascita dell'eremo. Tutto è avvenuto semplicemente. Qual è la vocazione dell'eremo? Offrire alle giovani chiamate da Dio l'assesi della solitudine, del silenzio, della preghiera, dello studio, del lavoro e della povertà, per poi dare ai fratelli una visibile testimonianza evangelica attraverso una scelta per me nuova e fondamentale, la condivisione. Mi perdoni questa lettera, gliela affido perché ne faccia l'uso che meglio crede. Io, come allora, neppur oggi intendo convertirla o farla mia complice. Semplicemente ho voluto riprendere, e potrei dire continuare, la nostra conversazione di allora. In Cristo, nostra speranza. Ben ritrovati, vi annunciamo la nostra rubrica a seguire nella mezz'ora successiva. Oggi, che è mercoledì, abbiamo l'equipe sanitaria del carcere, l'ASL di Bologna, con una replica sulle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di cui tra l'altro parleremo anche domani, quindi vi aspettiamo anche domani. Un carissimo saluto da me, che sono Caterina, Antonella Cortese, Nea Flacco, Diana Botta, Paola Leotti. Grazie a tutte e tutti e scriveteci redazione Liberi Dentro, @gmail.com. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.